Presenta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, molte notizie oggi, ma parleremo anche del premio Nobel all'economia, dato su un concetto, il nudge, che vorrebbe dire il pungolo, ma in realtà su come si tratta di economia comportamentale, spingere i consumatori ha un comportamento più corretto non attraverso azioni coercitive ma attraverso appunto un pungolo, cioè degli stimoli morbidi, detta anche la spinta gentile. Ha vinto il Nobel su questo l'economia, ne parleremo con vari esperti perché rientra nel campo della psicologia economica. Questa volta sappiamo che Stoccolma ci ha abituato degli anni a premiare chi faceva studi di carattere econometrico, insomma la matematica applicata all'economia, per farmi capire da tutti. Altri anni ha premiato più gli studi di carattere comportamentale, cioè le scelte non sempre razionali, che ne dica la vecchia teoria economica, con cui noi ci muoviamo, così come ricordo il premio Nobel sulla simmetria informativa, cioè il fatto che domanda e offerta non abbiano lo stesso numero di informazioni quando si incrociano per fissare il prezzo di un bene. Ecco, questo è il caso anche del 2017, in cui il premio Nobel all'economia è stato assegnato alla statunitense Richard Thaler dell'Università di Chicago per i suoi studi sulla comprensione della psicologia economica. Ripeto, il libro pubblicato da Feltrinelli, se non ricordo male, nel 2009, Nudge, una spinta gentile, e quindi va a studiare come si producono deviazioni rispetto ai percorsi razionali e anche sulle preferenze sociali nelle scelte economiche e sulla mancanza di self-control. Perché è importante questa? Cioè, che non è vero che noi siamo sempre così razionali e freddi nel giudicare le scelte, perché poi si applica moltissimo, per esempio, a tutti gli studi di carattere previdenziale, come si comporta l'individuo tra prendere adesso una cifra economica o aspettare che questa cifra invece venga data più avanti sotto forma di pensione. Pensate all'anticipo del TFR, che diventò oggetto anche in Italia di una possibilità. Ecco, lui si è concentrato nell'analisi di come noi ragioniamo, che, ripeto, non ragioniamo sempre con ragione, per usare un gioco di parole. Ci sono altri comportamenti che si accendono e si mettono in campo, e si chiama, diciamo, razionalità limitata, che non è solo quella di chi parla, questo è noto a molti ascoltatori che mi insultano ogni giorno, ma la razionalità limitata è quella che noi tutti mettiamo in pratica anche quando siamo convinti di stare ragionando nella maniera più logica e razionale possibile. Faccio una battuta, spero che non sia troppo irriverente: uno dei campi d'applicazione citati spesso a livello così di aneddotica di una razionalità limitata, non so neanche se farla perché è un pochino, cioè, praticamente si utilizzò, e viene citato anche dallo stesso premio Nobel, in alcune toilet, in alcuni bagni degli autogrill americani, per evitare, diciamo, per fare in modo che l'urina maschile centrasse esattamente l'obiettivo, fu messa una finta mosca sul water e si scoprì che l'80% delle persone a quel punto aveva un comportamento più corretto perché cercava di centrare la mosca. Uno dice: è una battuta? No, però è un modo citato per far capire a tutti di pungolo gentile, cioè invece che scrivere, obbligare o mettere una telecamera, ti multo se sporchi il bagno, bastò un'iniziativa del genere per ottenere un comportamento più razionale, anche se non per motivi razionali, a meno che uno non dica che centrare una mosca, tra l'altro pure finta, quando si fa la pipì, sia un comportamento razionale. In realtà il tema è molto più serio e ne parleremo più avanti. Ha ragione l'ascoltatore che mi dice: del resto l'economia è una scienza sociale, non è una scienza matematica e è solo razionale. Al di là di questo, invece, parleremo di cose molto più d'attualità, e cioè la vicenda dell'Ilva, perché come fummo facili profeti venerdì, l'annuncio della società di avere 9.930 dipendenti con 4.000 esuberi, ma soprattutto i nuovi a scatenare la protesta non sono stati solo i tagli e gli esuberi, ma le condizioni che dovranno essere accettate dai lavoratori, perché il contratto riparte da zero, cioè sostanzialmente l'azienda propone l'annullamento di tutta l'anzianità di servizio e un contratto che non avrà più l'articolo 18 ma avrà il Jobs Act. La cosa importante però è che il ministro Calenda oggi, dopo l'incontro sindacati azienda, ha definito irricevibile la proposta dell'azienda su salario ed inquadramento dei lavoratori e quindi dice il tavolo è aggiornato. Bisogna ripartire dall'accordo di luglio dove si garantivano livelli retributivi, se non si riparte da questo accordo la trattativa non va avanti. E lo ascolteremo. Anche il ministro Pinotti, ministro della difesa, ha detto l'azienda deve rispettare gli accordi, il governo vuole ridurre gli esuberi. La delegazione però dei vertici di ArcelorMittal è rimasta sconcertata dalla decisione presa dal ministro Calenda di non aprire il tavolo e ha detto continua l'azienda, è vitale il raggiungimento di un accordo con i sindacati di Ilva in un tempo ragionevole, è importante affinché una volta chiusa la transazione si possano iniziare a mettere in atto i nostri piani di investimenti, quindi è vitale non ritardare il piano. Però ripeto, la sorpresa non è tanto sul 4.000, da questo punto di vista anche sui nuovi contratti che vengono che andrebbero fatti per tutti, cioè per i 9.900 che resteranno in azienda scatterebbe comunque un nuovo contratto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Come sempre parleremo anche di borsa che è positiva di uno 0,20% a Milano oggi. New York funziona a ranghi ridotti perché sono chiuse le banche per il Columbus Day, quindi New York oggi è invariata, Francoforte è invariata, Parigi invariata, Londra meno 0,30%, da noi va bene, particolarmente bene, ne parleremo, Mediaset più 8,5%, Ferrari più 3,70%, Enel più 1,80% come Italgas, l'1,5% lo guadagna A2A ma anche Fiat Chrysler. Chi perde? Di nuovo pressione sui bancari, tema che insomma ci ha accompagnato lungo tutta la scorsa settimana dopo la decisione della Banca Centrale Europea di adottare nuove regole dal 1 gennaio 2018 per le nuove sofferenze bancarie. BPER meno 3,5%, Banco BPM meno 2,5%, UBI meno 1,20%, flette anche Intesa San Paolo dell'1% e poi Banca Generali e Mediolanum perdono lo 0,70%. Allora 349, dicevo 238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta come sempre su Facebook. Allora, qualche ascoltatore mi sta scrivendo, guardi che non ho capito il motivo per cui ha vinto il premio Nobel. Adesso cerchiamo di spiegarlo ancora meglio. Ripeto, si tratta di un'applicazione, o meglio, di un approccio psicologico alle scelte economiche, che non sono sempre scelte razionali. Non è vero che noi siamo in grado di valutare in maniera razionale e logica tutte le alternative che abbiamo a disposizione. Ci sono scelte anche irrazionali che non sempre notiamo, ma che sono importanti. E ripeto, per esempio, quando vai a proporre alcune alternative di carattere retributivo o di carattere pensionistico a chi ne ha diritto. Ma adesso vi arriviamo, un po' di pazienza ancora, andiamo sull'economia internazionale. Al di là del Nobel per l'economia, oggi sulla Brexit di nuovo dichiarazione del portavoce della Commissione Europea Margaret Skinner, che ha detto la palla è tutta nel campo della Gran Bretagna, che non ha ancora trovato alcuna soluzione per chiudere la fase 1. Per quello che riguarda la vicenda catalana, allora domani ci sarà l'atteso intervento del premier catalano Puigdemont, però oggi di nuovo la vice premier di Madrid Soraya Sáenz de Santamaría ha detto una possibile dichiarazione di indipendenza domani in Parlamento da parte del presidente catalano non rimarrà senza risposta da parte dello Stato spagnolo. Il vice segretario del Partito Popolare, Pablo Casado, ha detto: stia attento Puigdemont, speriamo che domani non dichiari nulla perché rischia di finire come chi lo ha fatto 34 anni fa, e quindi rischia il carcere. Il ministro Padoan, entrando al vertice Eurogruppo in Lussemburgo, ha detto: è una crisi grave, è un ulteriore segno che c'è bisogno di un ulteriore slancio dell'Unione Europea, e se invece si va nella direzione opposta siano danni per i paesi che ne sono coinvolti e quindi anche per i cittadini. È una crisi grave, è un ulteriore segno che c'è bisogno di un nuovo slancio all'Unione Europea, e che se invece si va nella direzione opposta si hanno danni per i paesi che ne sono coinvolti e quindi anche per i cittadini. E poi Padoan è intervenuto anche sulle nuove norme, quelle a cui facevo riferimento, dalla Banca Centrale Europea sui non performing loans, sulle sofferenze bancarie. Ha detto: insomma, abbiamo molte perplessità sia sui modi che sui contenuti. Io modestamente ho fatto notare fin dall'inizio che la sorpresa con cui la notizia è stata accolta dai mercati e anche dal mondo bancario faceva venire il sospetto che la cosa non fosse stata in qualche modo anticipata, annunciata, come sempre fanno le banche centrali ormai da anni, per preparare il mercato. Ecco, forse era il caso di preparare il mercato anche su questo. Abbiamo notato un'estrema sorpresa da parte di tutti i soggetti coinvolti. Comunque, Padoan su questo. È chiaro che in Italia c'è un problema di riduzione delle sofferenze bancarie, è chiaro anche che questo processo è iniziato, sta andando nella direzione giusta, con una velocità crescente, quindi di questo siamo soddisfatti. Ho delle perplessità sia sui modi che sui contenuti della comunicazione messa in discussione del SSM, cioè del Single Supervisory Mechanism. Comunque ne discuteremo nelle prossime settimane. Ancora vedo che alcuni mi scrivono sulla frase del numero 2 del Partito Popolare Spagnolo, Casado, se si riferiva al 1934 o a 34 anni fa. Allora, l'agenzia non è chiara su questa, anche secondo me si riferiva al 1934, quando la Repubblica Catalana durò 11 ore e in carcere finì, diciamo, in qualche modo il predecessore di Puigdemont, che si chiamava Luis Companys. Poi il virgolettato delle agenzie cita 34 anni fa, secondo me c'è stato un refuso mentale da parte del vice segretario del Partito Popolare. Ma noi andiamo avanti con alcune dichiarazioni proprio sul tema finanziario europeo, perché da un lato uno dei membri della Banca Centrale Europea, Ismaersch, oggi a margine di un incontro alla Bocconi di Milano, ha detto: la nostra intenzione non è limitare la capacità di credito, ma avere un sistema bancario sano. Però un conto l'intenzione e un conto poi il risultato, perché a noi sembra che invece soprattutto per i crediti garantiti, mi riferisco a quelli sui mutui, il tempo di 7 anni sia un po' limitato e andrebbe a fare un danno al nostro paese. So che Oscar Giannino anche in questo caso non è d'accordo con il sottoscritto, ma questo, insomma, ecco, come si dice giornalisticamente, non è più una notizia in questo palinsesto. Andiamo avanti però. Schäuble se ne va. Onore delle armi? Insomma, sì, onore delle armi. 8 anni vanno bene, 8 anni sono stati un periodo giusto per fermarsi e fare altro. Così il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, falco per eccellenza dell'esecutivo Merkel. Padoan, oltre che l'onore delle armi, a Schäuble riconosce anche il fatto di essere stato un grande ministro delle finanze. Chiaramente questa è l'espressione del nostro ministro dell'economia, non del sottoscritto, ma è inutile che torni su vecchie polemiche. Sentiamo questo, diciamo, commento brevissimo del ministro Padoan sul suo collega, a questo punto non più collega, Schäuble. Auguro al Wolfgang Schäuble un grande futuro come presidente del Bundesbank, è stato un grande ministro delle finanze. Allora, Confcommercio oggi, o meglio il mondo del trasporto che si è riunito a Cernobbio. Confcommercio però ha rivisto tutte le stime per il 2018, le riviste al rialzo, più 1,3% il PIL quest'anno, più 1,2% nel 2018. Il presidente di Confcommercio, appunto al forum di Conftrasporto, che è un'associata che si occupa del trasporto nel mondo di Confcommercio, ha detto, e mi riferisco a Sangalli, il dato va bene, possiamo parlare di ripresa ma purtroppo lenta e parziale, e quindi siamo lontani dal ritmo del 2% necessario per riassorbire disoccupazione, far riprendere appieno le attività produttive e diminuire la povertà. Ascoltiamo il microfono del nostro Andrea Ferro. Avere eliminato l'aumento dell'IVA per il 2018 è certamente un buon risultato, per il quale la Confcommercio si è spesa ininterrottamente nell'interesse generale del Paese, e la legge di bilancio appare ben impostata anche per i tagli alla spesa pubblica in produttiva. Ma la ripresa che si sta consolidando resta lenta e parziale, e i consumi rimangono deboli. Insomma, siamo solo al primo tempo di una partita ancora lunga da giocare, e per vincerla bisogna accelerare sulle riforme e ridurre i problemi strutturali della nostra economia: eccesso di burocrazia, di tasse, deficit di infrastrutture, perché questi difetti rappresentano un buco nero per la competitività delle nostre imprese. Intervenuto al forum di Conftrasporto anche il ministro Del Rio, che dice: l'Italia ha perso quota di mercato nei trasporti internazionali a causa di un dumping sociale. Qui devo tradurre il termine, vuol dire che insomma la concorrenza in dumping, cioè scorretta, di autotrasportatori tipicamente dell'est Europa, che vengono in qualche modo, che non semplicemente non lavorano per società dell'est Europa, ma vengono utilizzati anche da società italiane. E dice appunto Del Rio: resta in Europa il grande tema delle regole. Non tutto quello che è moderno, che è digitale, è giusto. Se con una piattaforma digitale io ho la pizza a casa, a domicilio, ma quel lavoratore viene pagato 2 euro all'ora, non va bene, è una regressione, non è modernità. Se con la modernità e con l'apertura delle frontiere noi abbiamo lavoratori che vengono pagati un terzo di altri lavoratori, non va bene. L'Europa deve decidere che tipo di sviluppo, che tipo di regole vuole abbracciare fino in fondo e non parzialmente. Quindi abbiamo bisogno di un approccio al capitalismo, diciamo, moderno, all'evoluzione del capitalismo, che sia meno acritica, che sia più capace di andare in profondità e di vedere se appunto certi modelli di sviluppo sono in grado di garantire quell'armonia nello sviluppo che è necessaria, dietro cui, come sapete benissimo, se non c'è armonia nello sviluppo, se le disuguaglianze aumentano, se si concentrano le ricchezze, si perdono i fondamenti di una economia diffusa e di una ricchezza diffusa, che sono stati i fondamenti che hanno garantito peraltro a questo paese, o ad altri paesi come la Germania, che ha fatto dell'economia sociale di mercato una delle sue forze. Si viene a perdere il senso stesso del progresso e dell'evoluzione se non si tengono conto queste cose. E poi il ministro Del Rio è intervenuto anche su Alitalia: va venduta e non svenduta. Infine, sempre al microfono il nostro Andrea Ferro: il peso effettivo degli adempimenti burocratici nelle aziende italiane di trasporti, perché poi c'è il dumping, ma c'è anche il dumping che ci facciamo da soli, nel senso che quando tu sei sommerso di oneri burocratici diventi meno competitivo, al di là della concorrenza scorretta che stai subendo. Lo ha ricordato Andrea Appetecchia dell'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti. quello che abbiamo cercato di fare insieme alle imprese di Conftrasporto è proprio quella di andare oltre il senso comune della lamentela generica sui costi, diciamo, della burocrazia e degli oneri amministrativi. Per cui siamo andati a verificare il costo effettivo del singolo adempimento burocratico e amministrativo. Abbiamo identificato 5 adempimenti per le imprese di navigazione e di autotrasporto. E quello che abbiamo scoperto è che in realtà, andando a verificare i costi effettivi in termini di personale impiegato, costi di consulenze, attività delle imprese, abbiamo lavorato a identificare quello che è un costo addirittura di circa 1 miliardo solo per 5 adempimenti amministrativi per questo due tipo di imprese. E quindi in realtà la stima che viene fatta dal piano della semplificazione del governo di circa 31 miliardi di costo delle inefficienze amministrative, se questo è il dato solo per due classi di imprese, effettivamente probabilmente deve essere più alto. Allora, dopo il metodo e la pubblicità, andiamo a capire perché cosa ha vinto il premio Nobel all'economia Richard Thaler. Molti mi stanno segnalando che, adesso forse mi è sfuggito, che il ministro Padoan, nella guerra in bocca al lupo al ministro delle finanze tedesco Schäuble, ha detto invece che Bundestag, cioè il Parlamento tedesco, auguri per la Bundesbank. Oddio, mi è sfuggita. Possiamo risentire l'augurio di Padoan? Auguro al Wolfgang Schäuble un grande futuro come presidente del Bundesbank, è stato un grande ministro delle finanze. Del Bundesbank, Bundestag voleva dire, comunque fosse così sarebbe anche freudiano, visto il ruolo che ha avuto la Bundesbank nel, diciamo, influenzare quando poteva, perché Mario Draghi non si è fatto nemmeno molto influenzare la Banca Centrale Europea. Andiamo sul meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Richard H. Thaler for his contributions to behavioral economics. And you see the photo of Dr. Thaler on the screen above us. He was born in 1945 in New Jersey in the United States. He got his PhD at the University of Rochester. And he's currently professor of behavioral science and economics at the University of Chicago. He is a U.S. citizen. Dunque, di nuovo in diretta, 17:37 minuti, questo che avete appena ascoltato, l'annuncio del vincitore da parte della Reale Accademia delle Scienze Svedese del Nobel all'economia, e lui è appunto il neo premio Nobel, si chiama Richard Thaler ed ha, come già veniva citato in inglese, e lo vince su un approccio economico che si chiama behavioral, comportamentale in inglese. Anche qui non è che possiamo fare un piccolo trattato di storia dell'economia e discipline economiche, ma diciamola in maniera un po' cruda e un po' grezza: l'economia classica è quella che vede l'uomo, l'agente economico, sempre razionale sia nel fronte della domanda che nel fronte dell'offerta, sempre razionale quando deve fare le sue scelte, prende in considerazione tutte le opzioni, tutte le strade, tutte le alternative e sceglie quella che a lui sembra la più razionale. C'è un altro approccio, questa è la teoria economica classica, c'è un altro approccio invece che ha già visto un premio Nobel importante, perché mi riferisco, era il 2009 se non ricordo male, quando Kahneman vinse il premio Nobel, proprio sulla teoria dell'asimmetria informativa, cioè che non è vero che quello che vende una mela ha le stesse informazioni di chi la mela la compra, ha molte più informazioni chi vende la mela perché sa quante ne ha in magazzino e può dire è l'ultima, è la penultima, ne ho ancora 10. asimmetria informativa che andava a scardinare la categoria classica di due curve, quella della domanda e quella dell'offerta, che si incrociavano in maniera sempre razionale. Taylor, di cui Kahneman è un seguace, va anche oltre, perché dice ha studiato come poter indirizzare con adeguati stimoli anche da parte dei governi, pensate alle politiche di welfare, se devi convincere qualcuno a aspettare per la pensione piuttosto che ritirare subito i soldi del TFR o viceversa, insomma come indirizzare con adeguati stimoli anche da parte di governi e istituzioni persone e gruppi sociali a prendere le decisioni giuste e a migliorare la propria vita in maniera però gentile. La teoria del pungolo, questo è l'inglese per nudge, una spinta gentile, prevede che tu non li obblighi in maniera coercitiva con la legge, ma tu li spinga in modo da avere anche meno resistenze, meno frizioni e più consenso, partendo dall'approccio che la gente fa spesso scelte scadenti, perché come esseri umani siamo condizionati da una vasta gamma di comportamenti di routine che più delle volte portano imbarazzanti errori in tanti aspetti della vita, cioè non facciamo come scelta razionale ma solo come routine, per inerzia. Nell'educazione alla finanza personale, nell'assistenza sanitaria, nei mutui, nelle carte di credito, nella felicità e perfino, diciamo, nella gestione dello stesso pianeta. Cosa ha detto oggi in un brevissimo discorso Taylor? Ha detto, insomma, la lezione più importante che posso aver dato è aver riconosciuto che gli agenti economici sono umani e che i modelli economici ne devono tener conto, li devono incorporare, non possono trattare l'agente umano come se fosse un computer. Sentiamo il neo Nobel all'economia, appunto, Richard Thaler. The most important impact is the recognition that economic agents are human. L'impatto maggiore, la lezione più importante, è riconoscere che gli agenti economici sono umani e che i modelli economici ne devono tenere conto, li devono incorporare. Per ciò che riguarda il mio ruolo nel film, credo che probabilmente è stato importante e ha contribuito alla vittoria del premio. Devo dire però che sono stato deluso dal fatto che non sia stato menzionato nel discorso ufficiale. Mi chiedete del presidente Trump? Beh, penso che farebbe proprio bene a vedere quel film. Sulla questione del premio in denaro, è una domanda curiosa perché, come è stato detto nel discorso ufficiale, uno dei miei campi di ricerca è chiamato mental accounting, contabilità mentale. Secondo le teorie economiche classiche, non c'è modo di sapere quanto denaro viene speso per cosa. Quindi direi che proverò a spendere il denaro del premio nel modo più irrazionale possibile. Sì, riferimento a The Big Short, il film in cui lo stesso premio Nobel ha avuto una piccola parte, da noi si è chiamato La Grande Scommessa, no? 2015, e tra l'altro faceva un piccolo cameo accanto a Selena Gomez. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento, perché qualcuno mi scrive, ma insomma che scoperta, che banalità. Beh, insomma, banale forse il modo in cui l'ho spiegato io, la teoria della spinta gentile, cioè di piccoli incentivi sufficienti a cambiare comportamenti nostri che sono più causali o di routine, però lasciandoci liberi di fare le nostre scelte senza arrivare a elementi coercitivi, la legge, il divieto e quant'altro. Comunque vediamo se riesco a farlo spiegare meglio. Da un lato a chi insegna nella stessa università del neo premio Nobel, mi riferisco a Luigi Zingales, economista all'Università di Chicago, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Zingales. Buonasera. E grazie anche a Paolo Legrenzi, che insegna psicologia cognitiva all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera. Professor Legrenzi, parto da lei perché poi con Zingales vorrei essere un pochino più così, anch'io pungolare. Quando gli ascoltatori scrivono, ma insomma, ma che banalità, qualcun altro mi scrive, mi sembra la teoria della vasellina, perché è così importante l'applicazione concreta di quello che ha studiato Taylor? Perché noi uso sempre l'esempio delle politiche di welfare, cioè perché non è solo teoria, come di cui ogni tanto vengono accusati i premi Nobel? È così importante perché la storia dei premi Nobel dati agli psicologi ha avuto una fase con Kahneman nel 2002 in cui venivano premiati i lavori di chi aveva sì mostrato i limiti della razionalità e quindi la distanza rispetto agli assunti degli economisti, ma non li aveva tradotti in interventi pratici. Poi abbiamo, come lei ha citato, il Nobel Akerlund, asimmetrie informative, ma invece l'importanza per cui di Tele, per cui gli è andato il premio Nobel di economisti, è un passo avanti dovuto al fatto che lui ha capito che queste limitazioni, questi vincoli, questo allontanamento dai canoni della razionalità economica poteva venire sfruttato a fin di bene. Le faccio un esempio concreto. Da quando noi paghiamo il canone della TV dentro nella bolletta elettrica, abbiamo avuto i dati pochi giorni fa, e si scopre che in realtà noi siamo, per modo di dire, spinti gentilmente a pagarlo, perché facciamo, contiamo, diciamo, sul default, sul fatto che uno la paga automaticamente. Questo meccanismo di pigrizia umana trova molte applicazioni, si raccontano sempre quelle semplici perché sono facili da capire. Per esempio, i donatori di organi in Germania devono dire che lo sono, mentre in Austria lo sono automaticamente. Se lei fa in modo che la risposta che viene data automaticamente, che non richiede una decisione, sia quella benefica, sia una spintarella gentile, in modo anche inconsapevole lo fanno le persone per beneficio loro e altrui. Poi ci sono esempi più tecnici legati a quello che viene fatto sulle scelte previdenziali, sulle scelte di risparmio, ma sempre sfruttano, per così dire, a fin di bene queste limitazioni. In sostanza la pigrizia, uno non esplora tutte le alternative. La pigrizia, la routine, la sicurezza delle scelte già conosciute, cioè tutti gli elementi che voi in psicanalisi conoscete, in psicologia conoscete bene. Zingales, dopo il traffico vorrei capire se questo premio Nobel è la, non dico la sconfessione, ma un'altra picconata all'approccio classico dell'economia. Citava giustamente le Grenzi, sia Kahneman che la teoria, diciamo, della simmetria informativa, cioè l'idea, attenzione, è complice anche la crisi finanziaria che nessuno è riuscito a predire in quel modo, perché anche lì ne abbiamo visti i comportamenti belli irrazionali nell'agire economico. Insomma, sono picconate che arrivano alla teoria classica dell'uomo razionale che conosce le alternative e sa dove valutare. Questo vale sia quando faccio un piano previdenziale, sia quando faccio un investimento in borsa, sia quando devo scegliere l'alternativa migliore per me. Per cui è meglio che qualcuno che ha invece più lucidità di lungo termine ti spinga, ripeto, non obbligandoti, ma ti porti a una scelta per te più conveniente. È una picconata oppure possiamo immaginare una complementarietà, per cui l'approccio classico monetarista, tassi di interesse, curve, sta vicino a un approccio più psicanalitico? La risposta dopo il traffico. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta, vedo molti che dicono, ma insomma l'esempio del canone inserito in bolletta è appunto la teoria della vasellina, cioè come portarmi a pagare ma senza che io mi arrabbi. Non è solo questo, l'abbiamo spiegato bene. Ma insomma, Zingales è in contrapposizione con l'approccio classico, quello che si studiava una volta, non so adesso, insomma, nelle università, l'uomo razionale, l'uomo economicus per definizione razionale. Sicuramente Dick Taylor ha avuto un ruolo molto importante nello scardinare la versione, diciamo, più limitata dell'approccio classico, e oggi l'economia comportamentale è insegnata e studiata dappertutto. Mm-hmm. Cioè, ricordiamoci che Chicago, che è uno dei posti principali dell'economia razionale, ha come professore da ormai 20 anni Dick Taylor, proprio perché è diventata una parte integrante del modo in cui si fa economia oggi. E quindi lei non vede una contrapposizione. Qual è l'elemento più importante? Perché le Grenzi faceva notare che, a differenza di altri premi Nobel di carattere appunto comportamentale, questa volta ci sono anche le implicazioni concrete, cioè non c'è solo la teoria, lo studio, ma c'è anche l'implicazione concreta sulle politiche di welfare e quant'altro. Secondo lei è questo l'aspetto più interessante di questo premio? No, secondo me l'aspetto più interessante è il riconoscimento che le altre discipline sociali hanno un ruolo importante in economia. Cioè, ricordiamoci che 25 anni fa Gary Becker ha vinto il premio Nobel anche per aver portato l'economia in sociologia, e tendenzialmente era l'economia che entrava nelle altre discipline. Dick Taylor ha avuto un ruolo cruciale nell'importare la psicologia in economia. Lui non è uno psicologo, lui è nato economista, ma è stato il trade union tra Kahneman, Tversky e l'economia razionale, e ha avuto un ruolo importantissimo in questa trasformazione dell'economia di oggi, e secondo me in questo lui merita assolutamente il premio Nobel. Io sono meno entusiasta della teoria di Nagy, quello come in Italia si chiama pungolo. Primo perché non mi fido che i governi siano sempre benevolenti, e quindi il rischio di applicarla è un rischio di applicarla a dei fini non sempre positivi. E in più perché oggi si è sempre più diffusa anche nelle imprese. Molti dei suoi studenti oggi lavorano in imprese che hanno il ruolo di creare il punto di base, il default point, per aumentare i profitti delle imprese, ma in qualche modo portare o indurre la gente a comprare di più, comprare cose che non vogliono e spendere più soldi. Quindi c'è un aspetto negativo di nudging che va considerato. Ecco, in questo però, se non divento troppo profano, quello che scrivono alcuni ascoltatori, ma insomma, il pungolo potrebbe essere anche, adesso lasciamo stare il termine vaselline, ma potrebbe essere anche un modo per fregarmi, per portarmi a fare delle scelte che convengono al governo e non al governo lungimirante che dice: attento, se tu non metti da parte dei soldi poi e quindi fai una scelta per te, cittadino lungimirante, ma che convengono al governo solo nel brevissimo termine per fare cassa, che è un'altra storia. Le Grenzi, questo se ho ben capito, Zingales è più scettico nel dire: attenzione, perché il pungolo può portare i governi non lungimiranti che pensano solo al breve. Se a qualcuno viene in mente qualche paese con governi lungimiranti che pensano solo al breve, me lo dica, magari con capitale Roma. Ecco, potrebbe essere un rischio, cioè il pungolo va bene se io mi accorgo, parlo da padre in questo caso, che senza dare lo schiaffo, l'urlone, la cosa coercitiva, posso spingere mio figlio a fare una scelta più lungimirante, migliore per sé, è un conto. Altra cosa se io lo faccio pro domo mia, per un interesse mio a brevissimo, che non voglio che lui mi rompa le scatole. De Grenzi. Personalmente io sono d'accordo con Zingales, per la verità. Bisogna fare delle distinzioni. I meccanismi mentali studiati dall'economia comportamentale sono uguali per tutti. Un conto se chi li sfrutta a fin di bene è un'organizzazione governativa, e già qui sono state sollevate delle perplessità, un conto è un'organizzazione privata, perché anche un privato può sfruttare questo tipo di meccanismi per indurre acquisti, consumi e così via. Il punto cruciale di questa, diciamo, cautela consiste nel fatto che le persone che sono coinvolte in questi interventi di, diciamo, tra virgolette, spintarelle gentili, non sempre ne sono consapevoli, anzi funziona nella misura in cui una persona non è consapevole, quindi c'è un vago ombra di paternalismo Ecco, su questo Zingales in 30 secondi, ma che differenza c'è allora tra i bisogni indotti tanto criticati negli anni 80 e 90, cioè che mi inducevano a comprare, a cambiare l'auto ogni 3 anni, l'abito ogni anno, cioè il bombardamento sui bisogni indotti che non erano bisogni miei ma erano, diciamo, condizionati, indotti da qualcun altro. Anche qui potremmo dire che la critica è che uno va verso comportamenti indotti, io non me ne rendo conto ma sto facendo quella scelta perché sono stato bombardato, anche se in maniera gentile. Certo, non so quanto gentile sia il bombardamento, questo termine gentile è forse più dell'italiano. La scelta originaria si chiamava un paternalismo libertario, perché lasciava la scelta di uscire da questa spinta. Però il rischio, come diceva anche il professor Legrenzi, è un rischio serio che va considerato. E anche perché il pungolo gentile è quasi noi l'abbiamo tradotto in spinta gentile, ma nudge vuol dire pungolo. Ora, un pungolo, per quanto morbido, rotondo, di gentile c'è sempre poco, se no non si chiamerebbe pungolo. Grazie comunque sia a Paolo Legrenzi, appunto, che insegna psicologia cognitiva alla Ca' Foscari di Venezia, a Luigi Zingales, che insegna economia all'Università di Chicago ed è anche editorialista del Sole 24 Ore. Andiamo sul GR24, poi la borsa e poi la vicenda, ahimè, tutt'altro che diciamo, teorica, dell'Ilva, il neocontratto proposto e gli esuberi, e i 4.000 esuberi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio, ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24. Dai Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche all'Ilva, prima la borsa. Devo dire che insomma vedo ancora molti messaggi sul premio Nobel, devo dire anche diversi, chi dice sì insomma è un pungolo che ti frega, invece altri riconoscono l'importanza di un approccio comportamentale, quindi meno economico in senso stretto, allo studio dei nostri comportamenti economici. Adesso arriviamo all'Ilva invece, prima la borsa, però Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Borsa che oggi non ha praticamente Wall Street, è aperta, ma le banche sono chiuse, quindi è invariata. Francoforte più 0,16, Parigi più 0,11, Londra meno 0,20, Milano più 0,40, nonostante le banche. Lo dico perché poco fa anche il ministro Calenda, oltre che il ministro Padoan, che abbiamo ascoltato in apertura del programma, anche il ministro Calenda ha avanzato dubbi sulla decisione della Banca Centrale Europea che impone nuove regole dal 1 gennaio 2018 per le nuove sofferenze bancarie. Si rischia, come ha detto poco fa Calenda, si rischia in particolare di colpire le piccole e medie imprese. Faremo su questo una battaglia in Europa, mentre Andrea Enria, che io adoro perché è uno di questi italiani, non capiterebbe mai con un tedesco o con un francese, che quando vanno nelle istituzioni internazionali si dimentica completamente del paese da cui è venuto. Io va bene, mica devi lavorare per l'Italia, stai lavorando, sei presidente dell'EBA, European Banking Authority, ma ci fosse una volta che Andrea Enria è intervenuto ricordando il paese da cui viene, che è fatto di piccole e piccolissime imprese che hanno rapporti con la banca, che hanno un tessuto diverso dalla Germania dei grandi colossi, diverso dalla Francia delle grandi partecipate dello Stato, diverso da tutto. No, lo dico perché uno, per carità, io non voglio che il presidente dell'European Banking Authority faccia il gioco dell'Italia, ma neanche che si dimentichi di come cavolo funziona il credito in questo paese. Perché lo dico? Perché per l'ennesima volta lui dà ragione a tutte le regole di carattere europeo che diciamo male si applicano all'Italia. Il principio deciso dalla Banca Centrale Europea non è sbagliato, è giusto dire di vedere come si applicherà in pratica. La logica si concentra sul futuro, solo sul nuovo flusso di NPL, non sullo stock esistente. Oh, Bravo. E intanto però il mercato è preoccupato e devo dire che sto preso anche un po' la sorpresa vista le reazioni. B per banca meno 3,20, Banco BPM meno 2,80, UBI meno 1,20, Banca Generali meno 0,60 come Intesa San Paolo. Eleonora. Sì, infatti oggi è stata una giornata ancora di calo per le banche, sono, ricordiamo, in calo ormai dalla scorsa settimana, dopo che è stata indicata la stretta di BCE sui crediti che saranno maturati, crediti deteriorati, maturati a partire dal 2018, ma come se non bastasse la stessa BCE ha indicato quest'oggi che in base agli stress test effettuati sui bilanci del 2016 il sistema bancario europeo nel suo complesso può sostenere un eventuale rialzo dei tassi di interesse e ovviamente si andrà in quella direzione. D'altra parte ha rilevato la stessa BCE alcuni singoli istituti, senza specificare quali, dovranno effettuare aumenti di capitale. Quindi questo ha ulteriormente rafforzato il flusso di vendite anche sulle banche italiane. Eh sì, e continuano, perché è dalla settimana scorsa che li abbiamo. Detto questo, però, Milano è positiva grazie soprattutto a Mediaset più 8,34%. Qui c'entra anche il Sole 24 Ore, visto che sabato abbiamo rilanciato l'ipotesi trattative tra Fininvest e Vivendi per trovare un accordo invece che arrivare alle vie legali o continuare con le vie legali. Esatto, infatti il prossimo 19 dicembre ci dovrebbe essere un'udienza in tribunale sempre sulla questione premium che non è stata più acquistata da Vivendi, però proprio il Sole 24 Ore ha scritto che intanto si stanno incontrando i legali di Vivendi e di Mediaset per raggiungere un accordo che probabilmente potrebbe coinvolgere anche Telecom. Telecom, che ricordiamo di fatto è controllata dalla stessa Vivendi. E su questa ipotesi si è letteralmente infiammata Mediaset, anche perché in base alle valutazioni degli analisti entrare comunque in un gruppo paneuropeo sarebbe molto positivo per la società del Biscione. Invece Telecom è rimasta al palo, anche perché primo non si capisce bene come potrebbe entrare in questa joint venture, secondo ricordiamo che c'è ancora la spada di Damocle delle autorità italiane che dovranno pronunciarsi sulla multa che eventualmente dovrà pagare la compagnia che non ha comunicato il fatto che Vivendi controlla di fatto, come ha rilevato invece la Consob, il gruppo telefonico. Su questo c'è un'aggiunta, perché pochi istanti fa il ministro Calenda ha detto: credo su Team che sia necessaria la Golden Power su Sparkle. Allora, qui detto così un po' criptico, Sparkle è la controllata di Team che gestisce i cavi sottomarini su cui circolano flussi dati, quindi considerata cruciale per la sicurezza strategica di questo paese, perché lì viaggiano tutti i dati. E cosa ha detto Calenda? Ha detto: per la prima volta abbiamo detto ad un investitore che non ha notificato, come tu ricordavi, il suo controllo in Team, apre una procedura sanzionatoria, dopodiché valuteremo la necessità di applicare la Golden Power. Credo che sia necessaria perché Sparkle ha un ruolo di sicurezza nazionale. Devo dire che è la seconda volta, vado a memoria però, che Calenda ribadisce che lui è per l'utilizzo della Golden Power. Dicevamo Mediaset più 34, Ferrari, insomma, non è che sia andata benissimo ieri a essere buoni, però il titolo fa più 3,46%. C'è Sergio Marchionne che va a Wall Street, oggi ha suonato la campanella per il 70° anniversario della casa di Maranello. Esatto, ieri sul circuito non è andata bene, ma d'altronde proprio a Wall Street Sergio Marchionne ha detto: la stagione non è persa, è ancora tutta da rifarsi. E poi ha anche detto, senza fare l'arrogante, credo che la Ferrari sia allo stesso livello, se non superiore alla Mercedes. Ha dato speranze e comunque ha detto tra l'altro che le prospettive per l'azienda del cavallino rampante sono fenomenali, che lui stesso è long, cioè sta acquistando titoli. E quindi tutte notizie che ovviamente hanno finito per incoraggiare ancora ordini in acquisto su Ferrari, che è salita quasi a 100 euro, a 98,7 euro più 3,4, trascinando dietro peraltro anche Fiat, che quest'oggi ha guadagnato l'1,5%. Ultima notizia invece, bene anche Enel più 1,80, Italgas più 2, Fiat appunto più 1,5, come Terna 2A più 1,30. E Snam Atlantia perché è più 0,65, qui è arrivato via libera dalla Consob spagnola all'Opal su Abertis, che è l'autostrada per l'Italia, della Spagna, l'autostrada spagnola, diciamo. Sì, è una notizia che comunque non ha mosso più di tanto il titolo, perché la partita è tutta da giocare. Sicuramente è positiva dal momento che proprio la stampa spagnola non dava per scontato il via libera da parte delle autorità appunto di Madrid. D'altra parte va anche detto che, sempre in base a indiscrezioni raccolte dalla stampa spagnola, la società di costruzione ACS avrebbe già tutte le garanzie finanziarie per fare una controopa. Non a caso i titoli di Abertis continuano a salire, anche quest'oggi hanno fatto più 0,5%, passano di mano a 17,35 euro, non risentono neppure, diciamo, della crisi della Catalogna, anche se la società a base a Barcellona, e continuano a salire oltre il prezzo cash offerto da Atlantia per le azioni. Quindi sarà una partita ancora in verità tutta da giocare. Migliori e peggiori in assoluto, CHL più 21, Visibilia più 18%, Expert System più 11,60%, fronte opposto KEY più S meno 7,50%, Ambro Mobiliare meno 6,60%, Banca Intermobiliare meno 5,40%, Mittel meno 4,80%. Grazie Eleonora Micheli. Traffico e poi andiamo a Taranto, meglio tra Roma e Taranto, per la vicenda dell'Ilva. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Focus Economia. Otto e 20 minuti, l'Ilva. Allora, dura la posizione del ministro Calenda, ascoltiamola subito. La proposta è irricevibile non solo per i 4.000 lavoratori in esubero, ma anche per il fatto che gli altri, quindi 9.900, adesso voglio darvi la cifra esatta se la becco, 9.930 avranno un contratto che riparte da zero, quindi azzerata l'anzianità, diverso anche il contratto, non più il vecchio contratto che prevedeva l'articolo 18, ma il nuovo col Jobs Act. Abbiamo incontrato stamattina col viceministro Bellanova l'azienda, abbiamo comunicato all'azienda che l'apertura del tavolo in questi termini è irricevibile, in particolare per quello che concerne l'impegno sui livelli di stipendio, di inquadramento, su cui c'era l'impegno dell'azienda a rispettare l'attuale situazione. Gli esuberi erano noti a partire dall'offerta, ovviamente parte del tavolo coi sindacati aveva e ha l'obiettivo di ridurli, ma noi non possiamo accettare nessun passaggio indietro come governo per quello che concerne le retribuzioni, gli scatti acquisiti da parte dei lavoratori. Abbiamo chiesto dunque alla società di, in avvio di tavolo, confermare questi elementi, dunque al parte il piano occupazionale, il riconoscimento per un costo medio che mi pare sia intorno ai 50.000 euro. Questa conferma non è venuta e pertanto abbiamo detto all'azienda che senza questa conferma il tavolo per noi non si può aprire, e abbiamo richiamato e richiameremo ancora nelle prossime ore gli azionisti alla loro responsabilità e alle obbligazioni assunte con il governo italiano. Sulla stessa falsariga anche il ministro del lavoro Giuliano Poletti, interpellato dal nostro Andrea Ferro a margine del forum di Conftrasporto, dice: insomma, noi ci aspettiamo una risposta, tutte le altre ipotesi sono premature. Questa che è la posizione del governo è stata espressa all'azienda, quindi ci aspettiamo che l'azienda corrisponda coerentemente rispetto a quelle che erano le dichiarazioni di partenza, che facevano riferimento al fatto che c'era, come dire, un mantenimento in termini generali delle condizioni. Quindi se così non sarà qualcosa io mi auguro paragonabile al governo, a quanto fatto dal governo francese sulla nazionalizzazione, per esempio, io oggi dei cantieri. Oggi credo che non si debba considerare nessuna subordinata, perché questa è la posizione del governo e quindi su questa ci aspettiamo una risposta. Ma lei esclude che venga riaperta la gara direttamente? Noi in questo momento abbiamo una posizione che è molto chiara, è questa. E rispetto a questa non consideriamo opzioni di nessun'altra natura che non siano quelle appunto che abbiamo proposto all'azienda di riconsiderare questa posizione, e credo che sia quello che è giusto fare in questo momento. Qualsiasi altra discussione oggi è prematura e non avrebbe ragion d'essere, proprio perché... Allora, il leader della FIM Bentivoglie, già ospite di Oscar Giannino, vorrei far ascoltare la posizione dei sindacati della FIOM. Abbiamo detto, Francesca Redavid ha detto non accetteremo neanche un posto di lavoro in meno. Vorrei far ascoltare anche Rocco Palombella, sempre al microfono del nostro Andrea Viali, in quanto leader della WILM. L'incontro non si è svolto, il governo ha preso una posizione molto forte nei confronti di questo gruppo industriale, ha recepito quelle che erano le nostre prese di posizione, le nostre critiche, le nostre preoccupazioni e soprattutto la lotta dei lavoratori. Quindi il ministro ha chiesto a Mittal di rispettare gli accordi che aveva preso col governo. Mittal gli ha risposto dicendo che devono convocare il loro azionista perché non avevano l'autonomia per poter decidere. E questo è diventato ovviamente un elemento di sfiducia nei confronti del governo su questo gruppo industriale. Quindi noi non abbiamo fatto altro che prendere atto di questa azione del governo e abbiamo ribadito che per quanto ci riguarda non c'è solo l'aspetto di sfiducia legato alle condizioni di assunzione e legato agli aspetti economici. Per noi c'è un grande problema, che è quello degli assetti industriali e soprattutto degli esuberi. Noi non abbiamo concordato nessun esubero, riteniamo che la trattativa debba essere svolta senza che ci sia una precondizione. La precondizione è che sono stati già determinati gli esuberi. Per noi siamo convinti che un rilancio degli stabilimenti, in modo particolare quello di Taranto, a livelli di 9 milioni e mezzo di tonnellate, ci saranno addirittura le assunzioni. La risposta di ArcelorMittal, la delegazione dei vertici è rimasta sconcertata dalla decisione presa dal ministro Calenda di non aprire il tavolo, del tutto in attesa. E poi lo ha detto il CEO della divisione europea Gert van Poelvoorde. E poi ha detto ArcelorMittal è vitale non ritardare il piano, il raggiungimento di un accordo con i sindacati di Ilva in un tempo ragionevole è importante perché una volta chiusa la transazione si possa iniziare a mettere in atto i nostri piani di investimenti. Giorgio Palmiotti, buonasera. Domenico Palmiotti, buonasera. Buonasera Sebastiano, scusami, buonasera agli ascoltatori. Domenico, qual è la differenza? Che poi la domanda di fondo è una sola, cioè ognuno svolge anche il suo ruolo, ne abbiamo viste in questi anni a decine di trattative aziende e sindacati, ma qual è la sorpresa maggiore rispetto, visto che qui c'è stata una gara con due contendenti, rispetto all'offerta iniziale? Allora, la sorpresa maggiore è appunto, come dicevano dei collegamenti, dei servizi di studio, appunto non tanto gli esuberi, perché che gli esuberi siano 4.000 è stato già determinato, è stato già detto, non determinato, è stato già detto a giugno, quindi questa non è una novità, anche se il sindacato, il governo faranno di tutto per ridurre. La novità è appunto nell'offerta economica, cioè l'inquadramento di questi lavoratori, l'azzeramento delle posizioni in essere, il che porta, secondo calcoli sindacali, ad un taglio retributivo complessivo di circa il 20%, che i sindacati hanno valutato intorno ai 6.000 euro a testa. E questo taglio è considerato socialmente insostenibile dai sindacati. È anche vero però che fonti vicine ad ArcelorMittal, questo non è citato nel comunicato, però sono le fonti vicine all'azienda, dicono sì, è vero, ArcelorMittal si era impegnato a corrispondere una media retributiva di 50.000 euro lordi l'anno al lavoratore, ma quando aveva fatto una proposta occupazionale per Taranto nel primo anno di circa 9.400-9.500 addetti. Poi, prima che la vicenda arrivasse al rush finale, il governo ha chiesto e ottenuto dal ArcelorMittal che l'occupazione venisse portata ad almeno 10.000 unità, cosa che ArcelorMittal ha fatto. Questa cosa è stata anche scritta negli accordi prima dell'aggiudicazione, e ovviamente ArcelorMittal oggi dice: un conto che io garantisca una retribuzione di 50.000 euro lordi a 9.400 persone, un conto che la garantisca a 10.000 persone. Cambia il contesto economico, cambiano un po' tutte le cifre di riferimento. E ovviamente l'azienda oggi, messa così stretta dal ministro a dare una risposta su questo punto, ha preso tempo manifestando, come tu dicevi, sconcerto. E adesso quindi è chiaro, grazie per avercelo ribadito ulteriormente, che non sono tanto i 4.000 esuberi. Infatti anche noi, quando trattammo la vicenda in fase di gara, ricordavamo una cifra analoga, ma le condizioni per, i lavoratori 9.900, quanti cavolo sono, adesso non mi ricordo più, 9.800 lavoratori che resteranno all'ILVA, il contratto che riparte da zero, la perdita netta, perché è chiaro che hai maturato l'anzianità in questi anni, e quant'altro, è la risposta dell'azienda che dice: noi volevamo tenere un po' di meno, 9.930, volevamo tenerne un po' di meno. Vediamo. Secondo me, mettiamola così, io non sono un esperto di relazioni industriali, ma qualche margine c'è. Qualche margine c'è. Grazie intanto anche al collega da Taranto, Domenico Palmiotti. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto l'auguro di un buon fine, di una buona serata da Sebastiano Barisoni. Fine settimana, magari. Radio 24. Libera la voglia di fare.